FM. Danno i Kiss, salvano Babbo Natale. Ma Natalina, chi avrebbe potuto rapire Babbo Natale? Questo, miei cari Kiss, è appunto quello che dovete scoprire voi. Qualcuno ha rapito Babbo Natale, ma questo è anti-rock. Calma, Gene. Ragazzi, andiamo a salvare il Natale. Presto al Kisscottero. Sì! Babbo Natale, stiamo arrivando! Svelti, le uova si stanno schiudendo! Che cosa facciamo? Aspettate un attimo. Tutti sanno che gli pterodattili non sopportano il suono della chitarra elettrica. Sì, sta funzionando! Babbo Natale, attento! Oh no! Occhio, attento! Tu fai pratica con la chitarra, Babbo Natale. La prossima volta lo farai tu una solo. Non incoraggiatelo, ragazzi! Buonanotte, sono le 8, spaccate al nostro orologio, Pane, burro e rock and roll, che è un orologio rock, quindi la tua colazione rock. Qui a Rock FM c'è l'Ariele, la squadra. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Cioè, dicevo, l'Ariele e la squadra di Pane, burro e rock and roll, pronti a servirvi la colazione numero 150, seconda ora a nostra disposizione. Buona giornata a tutti voi che accendete la radio solo in questo momento, che entrate nelle vostre autovetture congelate solo in questo istante. Tenteremo di scaldarvi anche quest'oggi fino alle 9. Come al solito nella prima ora è successo ovviamente di tutto, non sto a dirvelo. Continuate pure a segnalare stranezze al 335 100 7777, stranezze ovvero rock, ovvero natalizie, perché siamo in speciale Buon Natale Rock. Buon Natale però rock. Per esempio, in tangenziale est avvistata Fiat Regata grigia modello preistorico con vetrofania natalizia sul lunotto posteriore. Un altro sempre stradale, c'era qualcuno che segnalava, no, questo dai ragazzi, per contrastare il vero network più potente, ovvero Radio Maria, dopo la canzone del Natale dovete inventare la preghiera rock e fondare un nuovo credo. Adepto Emi, no dai, non si scherza su queste cose ragazzi, ci spengono al volo, mannaggia. A proposito di stranezze, ho visto un Babbo Natale appeso su un camper, agghiacciante. Paolo da Milano che è disperato perché sabato non potrà venire all'Alcatraz, ma per voi amici di Milano è tranquillo, perché per il calendario male che vada venite qui a prendervelo. Però se venite all'Alcatraz è più semplice. Vi ricordo, per chi non avesse sentito, calendario 2008, venerdì lo smazziamo a Firenze all'ippodromo, ci saremo io e Max, e sabato all'Alcatraz io, Max e Claudia. Che volete di più? Un lucano? A quest'ora fa male. Blue suede shoes. Well, you can do anything, but they hold for my blue suede shoes. Sa cosa le dico, mi DJ dica, Ariel? Mi dica veramente. Io ci tengo a farle sapere, sì, che l'angolo dello strano. Sì, le notizie dire. Strambe. Strano, sì, ma vero, stava dicendo. Sì, gliel'ho, sì, esatto, tolto dalla bocca. Le ansie in ansia. Sì? Le ansie in ansia. Mi ero quasi dimenticato. Lei, come dice, sì, lei. No, io. Mi piacciono moltissimo perché sono sfiziose. Ma sì, sono quelle notizie che gli altri hanno gettato così nel water, perché mollarle lì nel risucchio dell'acqua, esatto, quando le possiamo sfruttare noi per un intervento che ci pagano pure. Infatti la nostra redazione ha ravanato. Lei conosce il significato di assolutamente questo, sì, verbo ravanato. Non nei propri pantaloni, ma nel cestino, nel della cestino spazzatura. Della lei spazzatura. Conosce il significato di ravanare nei propri pantaloni? Già sentito. Sono senza parole, ma passiamo oltre. Notizia natalizia! Strano, ma vero! Ringraziamo la redazione, posso partire col titolo? Deve. Uno studio rivela Babbo Natale vive in Kirghizistan. Il Kirghizistan, amena località a sinistra di Acapulco. Ci sta. Babbo Natale non vive in Lapponia, lo rivela. Aia. Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori svedesi che, calcolatrice in mano, ha ritenuto che la sua residenza, visto i tempi esigui per la consegna dei doni, debba necessariamente trovarsi in Kirghizistan, probabilmente accanto ai confini della Cina. Ah, la notizia, che non troverebbe al momento conferme, lascia di certo perplessi i bambini, ma anche gli adulti, direi di tutto il pianeta, ammettiamolo. Nello stato asiatico la gioia invece è stata infinita, tanto da convincere il governo ad offrire addirittura una ricompensa a chi scoverà entro il 20 dicembre, si badi bene, entro il 20 dicembre, la vera casa dell'autentico Babbo Natale, situata probabilmente tra i villaggi della montagna. La tesi degli svedesi si fonda completamente su uno studio statistico. Santa Claus, per dare i regali a tutti i bambini del mondo, dovrebbe percorrere la Terra ad una velocità di circa 5.800 km al secondo e fare 2,5 miliardi di soste. L'unico modo per riuscirci, senza usare renne dopate, è quello di avere la sua base operativa proprio in Kirghizistan. In questo modo impiegherebbe meno tempo. E allora, viva il Kirghizistan! Viva Babbo Natale, quello vero, quello autentico! E viva i Babbi Natale che dopano le renne! Perché e viva no? Il Kirghizistan! E viva le renne! E viva Babbo Natale! Lei è mai stato in Kirghizistan? Qualche volta. Ha fatto qualche concerto? Sono passato di là, di là, sì. Che bello saperlo. Anch'io sono notevolmente entusiasta! Centro commerciale Duse Giant Center vi augura buoni acquisti e vi ricorda che nel reparto bambini troverete Babbo Natale in persona, pronto ad accogliere le richieste dei vostri bambini, accorrete numerosi. Ciao Babbo! Ciao Trottolino, ah che simpatico frugoletto! Allora, hai scritto la letterina con i regali che quest'anno vorresti da Babbo Natale? Sì, ma voglio una cosa sola, una terza mano. Una terza mano? E cosa te ne fai di una terza mano? Allora, con due nuoto e con la terza tengo il naso chiuso. Oppure posso picchiare più forte mio cugino. Oppure tenere il bicino mentre le altre due stanno sul banco. Oppure avere sempre un dito per scaccolarsi. Oppure giocare alla play e mangiare. Oppure tirare le caccole a mia cugina e dire che non sono stato io perché avevo le mani alzate. Ferma. Ma porca miseria, mi stai facendo impazzire. Tu lo sai che nemmeno Babbo Natale può darti una terza mano? Perché è una cosa contro natura, vero? Allora spiegami, perché le tette più grosse mia mamma sia la terza mano o me no? Avanti un altro! Selezioniamoli questi bambini! Caro Frick, corri nello studio della diretta perché qui abbiamo un problema grosso da affrontare. Eccomi, lei è arrivato. Lei sa che è due settimane che ci occupiamo del Buon Natale per Rock. Sì, certo. Abbiamo una certo. radioascoltatrice che ha lanciato un appello disperato. Io vorrei condividere con lei la disperazione di questa radioascoltatrice. Spadino, mettimela un attimo in linea. Pronto, scendi, ci sei? Pronto? Pronto, ragazzi, ci sono. Pronto. Ancora viva, ma ci sono. Scendi, sta vivendo questa vigilia di arrivo del Natale in maniera drammatica. Molto drammatica, ragazzi, molto drammatica. Io lavoro a scuola. A scuola. E praticamente abbiamo la segreteria attaccata alla palestra. La palestra della scuola, che uno dirà, che problema c'è? Sì, infatti, assolutamente dovrebbe nessuno. Essere tutto è normale. Natale, scendi, sarà piena di spirito natalizio. Certo. Ragazzi, lo spirito natalizio è terminato due settimane fa, quando hanno cominciato le prove del saggio di Natale. Aia. Perché dalle 8:30 del mattino nel tardo pomeriggio sì. attaccano con le prove della recita, dei cori, e non so se sono peggio, i cori natalizi dei bambini che vanno ad oltranza o le maestre che parlano al microfono. Scendi, è nervosella, si sente che sei nervosella. Forse ragazzi, sono ti hanno disperata. ti hanno esasperata, diciamo. Io ho voluto chiamare con me Frick perché speravo in una parola, insomma, cosa puoi ma dire? Ma sì, io vorrei iniziare con una battuta sdrammatizzante. Posso tentare una specie di barzelletta di sciocchezza, se ti va. Di grande cagata, insomma. Per sì? dire. Allora scendi, parafrasando il famoso scambio di battute tra Tarzan e Jane. Io, Tarzan, tu Jane, vorrei dire tu scendi, io salgo. Ah, non stai molto meglio? Non ti senti molto più spiritosa? Spadino, non l'ha capita. Ha, ha, ha. Ah, ah, molto bene. Ti sentiamo ripresa, ripresa. Senti, okay, sentiamo che c'è parecchio casino lì sotto. Sì, adesso c'è la prova della recita. Oddio, volete condividere con me questa tragedia? Ma certo, ma certo, siamo qui apposta. Ovviamente tu no, non potrai parlare o puoi... No, cioè... no, ragazzi, io non posso parlare, io adesso starò zitta. Cosa stanno facendo? Entrerò di soppiatto con il telefono in un lato e vi farò sentire le prove della recita di Natale. Adesso stanno costringendo... In che città? Non ci hai detto in che città sei? Ragazzi, sono Milano Sud, non fate Milano, dire ok, città. Basta, no, Milano, abbiamo capito. Scende inviata per pane, burro e rock and roll, ci fa capire cosa vuol dire lavorare in una scuola dove per due settimane sente le recite. Esatto. E questi bambini, ragazzi, questi bambini adesso stanno costringendo questa povera bambina a leggere la poesia di Natale, ascoltate. Sì, ascoltiamo, ascoltiamo in religioso silenzio. Che ci sta provando. Ecco. Ah, la sgridano. Ma, la sgridano? Cosa sta succedendo? La sgridano? O... Ragazzi, adesso i bambini stanno imitando gli angioletti con le ali. Sono tutti accovacciati e imitano con le manine gli angioletti. Ho capito. Teneri. Ragazzi, qui in palestra c'è un freddo cane. I bambini sono in tuta con le aureole in testa, fatte di cartone, con tutti i brillantini. Questa è Radio Denuncia. Senti, ragazzi, ma... con i brillantini che gli cadono sul viso. Senti, ma perché no al riscaldamento in questa stagione? Cosa succede? Perché diciamo tagli? Che è acceso. Ecco, taglia il budget. Ragazzi, taglia il budget. Ragazzi, quello è quello che si sente nel nostro ufficio quando noi stiamo lavorando. Ascoltate bene. Sì. Sembra un girone infernale. Un girone dell'inferno descritto da Dante. Spiace. Posso aggiungere qualche suono? Scendi, torna tra di noi, esci da quella stanza infernale. Scappa da quella stanza. Spiace che non ti abbiamo beccata nel momento del coro, che probabilmente il momento del coro, credetemi, era appena passato. Era da suicidio, ragazzi. Quindi non abbiamo perso niente, tu vuoi dirci, fra le righe. Anzi, nel coro e nelle maestre che presentavano la recita. Però bisogna lavorarci un po' su, Scendi, perché la prendi un po' troppo male, secondo me. Ragazzi, sono due settimane, basta. Ti capiamo. Ti prego, basta, non ne posso. Scendi, cosa potremmo dire alle tue colleghe, ai colleghi che per caso magari si sono sintonizzati o ascoltano regolarmente la trasmissione? Tenete duro, condividiamo i vostri problemi. Narcotizzanti, molto bene. Narcotizzanti oppure riesumare Erode? No, neanche. No. Erode, neanche. Sì, no, era no, un no, po' no, estremo. No. Erode. Tranquillizzati, mi sa che ci risentiamo a gennaio, quando è finito il Natale, potrebbe tornare tutto a posto. No, il problema è che dopo gennaio, ragazzi, cominceranno le prove del saggio di Pasqua. Aia. Allora, a questo punto non c'è scampo. Scendi, allora buon proseguimento. Pane, burro e rock and roll ti sta vicino. Grazie, Scendi, ragazzi. Licenziati. Se proprio te la vedi brutta, licenziati, scappa, fuggi, finché sei ancora sana di mente. Ciao, Scendi. Ciao, difenditi. Grazie. E me, che c'è? O voi là fuori che vi svegliate nel pieno della notte, terrorizzati da una domanda: sono o non sono un vero rocker? O voi là fuori che ambite alla tessera di autentico rocker, prestateci le vostre orecchie. Prima o poi ce l'avrete se studiate col test attitudinale di PBR. E nel caso rispondeste male, continuate a tenere Bravo. Il contatto. Bravo maestro, mi piace quando li tranquillizza positivo, così. Positivo. Posso andare con la domanda di oggi? Assolutamente no. Invece io la farò ugualmente. Forse una delle più celebri canzoni rock di tutti i tempi. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. Grazie per il contributo dei Lynyrd Skynyrd. È presente in moltissimi film ed è giudicata la canzone On the Road per eccellenza. come sempre, tre le ipotesi di risposta che vi proponiamo. La domanda è: perché è stata scritta Sweet Home Alabama? Ipotesi A: Sweet Home Alabama era il nome della pasticceria della madre del cantante Ronnie Van Zant, o Ronnie Van Zant a seconda delle pronunce, che, volendo omaggiare la madre, scrisse appunto la canzone in questione. Oppure, ipotesi B: Sweet Home Alabama era il nomignolo della Cadillac, sempre di Ronnie Van Zant o Van Zant, che, volendo omaggiare la vita on the road, sulla strada, intitolò la canzone come la sua automobile. Oppure, infine, ipotesi C: Sweet Home Alabama venne scritta dai Lynyrd Skynyrd o Lynyrd Skynyrd per difendere... per difendere lo stato del sud, the South States, sì, of United States of America, dalle accuse di razzismo, accuse lanciate da Neil Young nelle canzoni Alabama e Southern Man. Prendete la vostra decisione, fatelo ora. Ipotesi A, B o C? Come al solito, la soluzione ve la diamo tra poco, la risposta a poco dopo.